Io lo so, oggi è un gran casino ovunque. Chi c'ha figa sta a casa, non si mette nel marasma. Se uno va andaggio rischia dei brutti incontri. Prendi il Globetrotter, ti chiede un passaggio. Tu elargisci, quello te lo metti in culo, questo lo trovo grave. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. E buonasera e benvenuti a tutti su Fuoco alle Polveri, sempre su Radio Wombat, come ogni lunedì alle 4:30. Eccoci. 4:30 con un margine di ritardo, sì. Ci prendiamo il nostro quarto d'ora accademico, come sempre. Certo. 37esima puntata. Sì. Incredibilmente, 37esima puntata. 37 come? 37 come? Guarda, io alla fine ce l'ho un 37 come. Dai, 37 come i carabinieri arrestati e indagati per le, per le molestie e per gli abusi ad Aulla. Oh, che bel numero. Hai visto? Che ansia, tra l'altro, mamma mia. Te ce l'avevi un po' più tranquillo il 37? Ma non lo so, tranquillo per modo di dire, perché mi dicono che il 37 sarebbe, è considerato la temperatura normale, corporea normale. La temperatura corporea normale. Per me è febbre. Per me è febbre, sì. No, invece se io ho 37 sto sdraiato a casa. Però, certo. Siccome mi fido di Wikipedia. No, è la temperatura, io credo sia la temperatura interna. Te quando misuri la temperatura la misuri esterna e quindi di conseguenza è un po' meno, quindi quando è 37 esterna probabilmente dentro sarà 38. Comunque sapere meno male abbiamo, sanno qualcosa, meno male abbiamo il nostro saggio Bricco. Sì. E quindi allora, salutiamo dai, appunto qua, certo. Già che ho nominato saluto cioè, il nostro Bricco che è qua, Joao. Buonasera. A condurre la nostra garanzia, la nostra sicurezza di serietà qua. Sì, la difesa, diciamo, sì. Poi abbiamo Mario, oggi Mario. Ciao. La regia è tutta sua. Sto facendo ciao con la mano, non so se vedete. Sì, in webcam vedono tutti. Poi abbiamo Ti Aspetta e Cav. Io, e come ti puoi autopresentare, se vuoi. Certo, e poi abbiamo anche il nostro caro Lapo. Ciao, Lapo. Ciao, Lapo. E invece, di argomenti che abbiamo oggi, di cosa andremo a parlare in questa 37esima puntata. Beh, settimana anche questa è stata una settimana calda, piena di notizie che ci hanno incuriosito. Poi alcune ce le scorderemo, alcune le bypasseremo. Però sicuramente gli eventi in Catalogna continuano ad andare avanti, cioè la storia va avanti. E continua a essere una storia in movimento molto molto molto veloce. Quindi succedono cose tutti i giorni e si sta dietro le notizie. Le analisi politiche, secondo me, probabilmente arriveranno tra un pochino. Ne parleremo a profusione, sì. E ne parleranno anche il 12 ottobre al CPA. Esatto. Come la settimana scorsa avevano affrontato l'argomento con dei compagni in diretta dalla Catalogna. Questa settimana c'è questa iniziativa su indipendenza e scontro di classe in Catalogna, con l'intervento di un giornalista responsabile per gli esteri della rete dei comunisti, Marco Santopadre. Esatto. Questo responsabile esteri della rete dei comunisti era presente a Barcellona nel giorno del voto. E quindi, oltre al nostro approfondimento, vi invitiamo a partecipare anche appunto il 12 ottobre, giovedì al CPA. Poi magari più tardi facciamo una carrellata. Però io, per esempio, proprio su Contropiano ho trovato delle notizie sempre aggiornate proprio da questo giornalista che è stato in Catalogna per anche la settimana precedente, la settimana successiva agli eventi del primo, e che ha riportato in diretta tutto quello che stava, cioè tutto, molte delle cose che stavano succedendo, e è stato abbastanza interessante. Comunque domani sarà un giorno fra virgolette caldo, sì. Dovrebbe esserci la proclamazione dell'indipendenza. E vediamo poi un po' cosa succede. Vediamo un po' cosa succede. Non lo sanno nemmeno loro, penso non lo sappia nessuno. Vediamo un po'. Altri argomenti ci saranno? Beh, un po' di eventi in città, sicuramente. Quello poi facciamo verso la fine, almeno non ve lo scordate. E le nostre rubriche. Anche oggi abbiamo qualche new entry. Tra poco la prima che sentirete riguarderà in particolare la nostra città, Firenze, con delle curiosità che la riguardano. Esatto. Ma aspettiamo a lanciarla. E musica, altre rubriche di tutti i tipi. Ancora non sappiamo nemmeno bene noi cosa ci aspetterà, anche da Tommaso Aspetta, che ancora non abbiamo capito cosa vuole tirarci fuori dal cappello. E vediamo un po'. Iniziamo forse con una canzone e poi ci sentiamo tra poco. Regia. Tornati in diretta su Radio Wombat. Bellissima canzone, bellissima. Gioia, solo gioia oggi. Ricordi d'infanzia. Beh, oggi mi avete messo in regia. Sono cazzi nostri poi adesso, certo. A proposito di cazzi nostri, una delle grandi novità di questa stagione di Fuoco alle Polveri sarà una tua nuova rubrica, caro Mario. Sì, sì, ne ho preparata una nuova. Ottimo. La volete sentire? Aiura, aiura. Sì. Di cosa ci parli quest'anno? Dunque, vi parlo Allora, io c'avevo un foglio di appunti, è che l'ho perso. E quindi me la faccio lo stesso, me la faccio a braccio. Tutti i fogli d'appunti. Come tutti gli studenti, il cane mangia il compito per casa, certo, certo. Presto dovremo imparare. Dunque, questa rubrica si chiama Lazzi entra a Lazzi. Fatti, facce, faccende e facezie da Firenze. Allora, fatti, no, capito? No, riprova. No, perché vi distraete. Allora, questa nuova rubrica si chiama Lazzi entra a Lazzi. Fatti, facce, faccende e facezie da Firenze. Ora non mi avete ascoltato di sì, nuovo? Sì, sì. Ripeti? Fatti, fattacci e fattoni. Lazzi entra a Lazzi. Questo Lazzi è il titolo. Poi immaginati il sottotitolo. Fatti, facce, faccende e facezie da Firenze. Va bene. Il sottotitolo io non me lo ricorderò. No, mai, ma è la parte sì. saliente. Dici, capito? Sì, capito? Sì, no, vabbè. La prossima volta. Vabbè. All'ombra del cupolone. Qua c'è. All'ombra del cupolone si chiama questa nuova rubrica. Insomma. E allora, di cosa vi parliamo? Parliamo in questa rubrica di tante vicende che riguarderanno Firenze, saranno curiosità, aneddoti, vicende storiche, una serie di faccende che di solito non appartengono alla storiografia ufficiale o alle conoscenze che tutti si hanno della città. Ah. E niente, io presto avrò una sigla insieme al nostro amico Grippo e la vogliamo preparare. La vogliamo tutti. Tempo al tempo, ma quello che volevo dire è che ogni nuova rubrica vuole essere introdotta da una canzone. Potrà essere una canzoncina su Firenze, uno stornello, qualche cosa appartenente alla tradizione popolare. Cioè ogni puntata. Ogni puntata una diversa, bene. Non come altre trasmissioni, per esempio quella della Formula 1 che fa quel tizio lì che c'ha sempre la stessa base. Una cosa che varia ogni volta. Che ha una bella base. Che è comunque una bella base, ma anche questa qui che abbiamo scelto per oggi ve la facciamo sentire e partiamo anche con la rubrica di lei. Dai, Così che ci avviciniamo anche al tema. Questo è un gruppaccio di compagni valdarnesi, gente molto molto per bene. Tutti teneteli d'occhio, presto ritorneranno nelle settimane a venire. Tolomei's Brother e vai con Lazzi entra a Lazzi, fatti facce faccende e facezie da Firenze. Womba. Molto fresco, molto fresco. La sentite? La conosciamo. La conoscete? Certo. Ah. Beh, dal 2009 che è perversa. Yo, c'è un'erba strana che cresce qui in Toscana. Non è tabacco, nemmeno valoriana. È inebriante, miracolosa. È come il vino, sta bene ad ogni cosa. Nasce nel Chianti, nasce in Garfagnana. Ma se l'annaffi nasce in tutta la Toscana. Piace alla gente, a quella più strana. Ha cinque foglie, si chiama marijuana. Marijuana, yo, marijuana. Marijuana in Toscana. Marijuana, yo, marijuana. Questo ci avvicina al tema, ma non è obbligatorio interrompere, possiamo anche sentire. Cioè, in realtà poi ci sono delle parti importanti nelle strofe a venire, delle frasi su cui può essere importante soffermarsi. Per esempio, sentiamo la seconda strofa. Un ritornello, un riff. Anche questo freschissimo. La solo di fischietto. Yo, yo, yo. Nasce nel Chianti pure in Casentino, in Val di Chiana in cima all'Appennino. Meravigliosa e inebriante, nel Medioevo la fumava pure Dante. Sembra una migna, è solo un po' più gialla. Se tu la fumi ti fa venire la balla. Quella migliore è giamaicana, ma viene buona in tutta la Toscana. Marijuana. La balla è una parola importante. Nell'ambito valdarnese vuol dire la botta. È un termine che ritornerà, quindi... Era bella l'immagine di Dante che si schioppava i cannoni, anche adesso, attenzione. Ormai sentiamo. Una rubrica serissima. Registrata live questa canzone. Ma è in arrivo il disco, di Tolomei's Brother. Annunciato per il 2017. Li inviteremo in trasmissione. Yo, fuma la canna, cocco della mamma. Fuma la tutta che poi si fa la nanna. Fuma la buona, cocco della nonna. Se tu fai bravo, ti do la finocchiona. Fuma la ganja che poi si mangia. Fumane poca, se no ti dai la pancia. Diceva un detto, il fumo va da belli. E noi con l'erba cantiamo gli stornelli. Marijuana, yo, marijuana. marijuana in Toscana. Marijuana. C'è l'ultima strofa, però è la più bella, attenzione, ci sono tutte le immagini degli artisti alle prese, niente male. Giotto fumava gli spinelli e dipingeva nelle tele solo agnelli. Andava in giro con la balla pesa, insieme a quello disegnò la torre a Pisa. Michelangelo fumava come un turco, se le faceva come stocchi di gran turco. Garibaldi ne portò un bastimento e per questo gli hanno fatto il monumento. Marijuana, oh. E allora oggi cosa parliamo nella rubrica Lazzi entra Lazzi? Non parliamo di marijuana in Toscana, ma di altre erbe a loro modo stupefacenti in Toscana. E di cosa parliamo? Volete provare a indovinare? No, ve lo dico io. Ve lo dico io. Oppio. Oppio e lichene roccella. Perché parliamo di queste due piante speciali? Perché a queste due sono legate un paio di vicende di palazzi e famiglie di Firenze. Cambiamo magari base, leviamo i Ptolemy's Brother. Si può fare. Comunque non era male, eh? Marijuana in Toscana. Ci chiamano? Chi lo sa? Bene, bene. Allora, vi racconto dei Bartolini Salimbeni e dei Rucellai. Queste sono due famiglie di Firenze, erano due commercianti dell'arte della lana e sono state molto famose a partire dalla fine del Medioevo fino al 7-800. A entrambe spetta l'intitolazione di un palazzo che era il palazzo di famiglia e sono due fra i palazzi storici più belli e famosi di Firenze, uno in via della Vigna Vecchia, quello dei Rucellai, l'altro in piazza di Santa Trinita, quello dei Bartolini Salimbeni. Non so se li avete presenti, quello in piazza di Santa Trinita lo si trova uscendo dalla chiesa di Santa Trinita di fronte. È il palazzo che sorge di fronte, costeggiato da via delle Terme, arrivando col ponte Santa Trinita alle spalle, l'Arno alle spalle, sulla destra quando si apre il triangolo della piazza. Quella piazza ha grandi curiosità, per esempio su essa affaccia ogni... Ciao Tommy. Per esempio su essa affaccia ogni palazzo appartenente a uno stile diverso e conseguenziale per un totale di 5, ma comunque tempo al tempo ne riparliamo. Questa casa però dei Bartolini Salimbeni, che si trova uscendo dalla chiesa là di fronte, è un palazzo che fu costruito da Baccio d'Agnolo nel 1523 precisamente fu eretto. È particolarmente importante perché è il primo palazzo che sposta un po' la tradizione rinascimentale verso un gusto manieristico. Infatti è la prima volta che, secondo un gusto più romano che fiorentino, si iniziano a vedere degli svolazzi negli ornamenti, marcati luci di giochi ombre, le finestre quadrate, una cosa assolutamente nuova. Tutte cose che poi sposteranno comunque lo stile artistico imperante nel palazzo verso uno stile manierista. Questo palazzo fu fatto da Baccio d'Agnolo per i Bartolini Salimbeni e se lo costeggiate tutto intorno, negli sporti, nell'androne, si può entrare nella loggia che è bellissima, neoclassica, con degli sgraffiti all'interno, dappertutto si trovano tre papaveri da oppio, con sotto il simbolo, con sotto il motto scritto per non dormire. Questa cosa infatti è il modo in cui un Bartolini Salimbeni fece grande ricchezza. Che è successo? Per non dormire, no, facciamo il contrario. L'oppio, giusto? L'oppio per non dormire. No, sentiamo questa curiosità. Ci hai lasciato un po' interdetti. Bene, non me ne ero accorto, ma mi fa molto piacere. Perché questa cosa? Perché questo è il modo in cui nel Medioevo un membro della famiglia Bartolini acquisì tutta quella ricchezza e gli permise di diventare una delle famiglie più importanti a Firenze e peraltro di costruire quel palazzo, che, giusto per dirne una, fu talmente criticato che lo stesso Baccio d'Agnolo volle incidere sopra lo sporto, sopra il portone, criticare è più facile che imitare, in dissenso verso tutte le critiche che gli avevano fatto. La rivincita sarebbe comunque arrivata tipo nell'Ottocento, quando questo sarebbe stato il primo palazzo d'Italia, nel 1871 credo, a essere definito patrimonio artistico nazionale. Il primo in assoluto, per quanto allora fosse stato giudicato scorrettissimo e molto criticato. questo simbolo che lo potete vedere, basta che davvero vi girate il palazzo, entrate sotto, ci sono tre papaveri d'oppio, si distinguono benissimo dappertutto sulle finestre, e la scritta per non dormire. Questo motto fra l'altro forse a qualcuno richiamerà anche D'Annunzio, che lo fece proprio e quella scriveva sui suoi portatabacchi e portapenne dappertutto per non dormire, ribaltandone un po' il senso. Comunque, Bartolini Salimbeni. C'era un Bartolini Salimbeni che nel 200 e qualcosa, era alla fine del 200, era un ricco commerciante dell'arte della lana. L'arte della lana era una delle sette arti maggiori, poi c'erano le 14 minori, e erano un po' quelle corporazioni che tenevano insieme i commercianti e gli artigiani di Firenze, ed erano un sistema di potere comunque che poi sarebbe sviluppato in un modo fortissimo, arrivando addirittura a imporre che soltanto un membro iscritto alle arti potesse raggiungere un titolo a Firenze o potesse essere eletto da qualche parte. L'arte della lana, fra le sette arti maggiori, era la più ricca delle ricche, era quella dotata di più denaro, di più potere, che avrebbe dato in giro i maggiori titoli dal capitano del popolo, gonfaloni, magistrati e così via. Bene, questi Bartolini Salimbeni all'inizio erano modesti commercianti dell'arte della lana. Una volta un Bartolini Salimbeni, insieme ad altri tre colleghi e rivali di Firenze, se ne va a Venezia per contrattare degli affari con dei commercianti veneziani. Sono in quattro da Firenze, se ne vanno, e dopo le convivialità del caso, gli incontri, le chiacchiere, la cena, il banchetto e gli scherzi, arriva il momento dopo cena di contrattare gli affari. Eccolo il clou della serata, insomma, anche della ragione del viaggio. Ma cosa non ti succede? Che dopo cena gli altri tre, che erano andati da Firenze insieme al Bartolini Salimbeni, sono tutti subito stanchi, ma stanchi stanchi, e se ne vanno a letto, prestissimo. Il Bartolini, che rimane sveglio e arzillo, contratta praticamente tutti gli affari da solo con i commercianti veneziani e torna a Firenze con una fortuna assoluta. Come aveva fatto? Aveva oppiato il vino dei commensali. Gli aveva infilato l'oppio dentro al vino e da solo aveva praticamente quindi contrattato tutti gli affari migliori. Quindi talmente tanta è la ricchezza che gli arriva da questa furberia che quando se ne torna decide di mettere i tre papaveri di oppio come i tre commercianti che aveva oppiato come proprio simbolo e per non dormire, cioè il modo in cui quella ricchezza gli era arrivata. Quindi l'oppio per gli altri, per non... sì, per far dormire gli altri. Per far dormire gli altri. Il simbolo è l'oppio. Esatto. Alza un po' e poi vi racconto la seconda, dai. Dai, viva gli escape. Certo, sempre. L'altra pianta invece è una lichene roccella, che era una pianta all'epoca sconosciuta a Firenze. Questo palazzo invece, che è il secondo palazzo da cui arriva la seconda storia, sta in via della Vigna Vecchia, che è continuando praticamente da Ponte di Santa Trinita, poco dopo sulla sinistra, andando giù per via Tornabuoni. Come, come? Dato, c'è anche la loggia di fronte, sì, quella sì, di Leon sì. Battista Alberti. E no? Di Alberti stesso è anche la facciata del palazzo, che fu aggiunto a ricucire vari palazzi che erano già della famiglia. Quella loggia è molto importante, fra l'altro, già che ci siamo, perché è l'unica che rimane di una tradizione che nel Cinquecento era fiorita stupendamente, avendo annoverato varie decine di logge simili a Firenze, ed erano delle logge di famiglia che avevano le famiglie ricche, che le facevano all'esterno, in via rispetto al palazzo, e le usavano come occasione di festa, per i banchetti, matrimoni, gli anniversari o cose del genere. E serviva proprio farla all'aperto perché il popolino che passava potesse guardare tutto ammirato e allo stesso tempo ringraziare per le bevande e il cibo che gli veniva offerto da questi signorotti che gli davano gli scarti del pasto. E questa è l'unica rimasta comunque, quella quindi la loggia dello Alberti è pure roba importante. Che ora è un pessimo negozio. Va così, il mondo va così. Vabbè, meglio che degli Alberti forse, o dei Rucellai. E che comunque questa si chiama loggia dei Rucellai, così come dei Rucellai si chiama il palazzo di fronte, che fra l'altro chi lo vedrà potrà notare la curiosità che non è finito, manca di simmetria e manca di essere completata la parte destra, infatti quell'intervento dell'Alberti era soltanto rifare le facciate. È un palazzo molto bello, invito chi non lo conosce ad andarlo a vedere e a notare come quella è la prima esperienza architettonica del Rinascimento in assoluto in cui si vedono comparire in uno stesso palazzo tre ordini distinti. Infatti in questo palazzo nei tre piani susseguono al primo piano, al piano zero, l'ordine tuscanico, al primo l'ordine composito e a quello sopra l'ordine corinzio, che si riconoscono dagli ornamenti dei capitelli, dalla base delle colonne. Quindi assolutamente centrale, insomma, secondo gli sviluppi dell'architettura dell'Alberti sarebbe stato un punto di riferimento assoluto, molto riutilizzato, molto riseguito. La famiglia che porta il nome e che dà il nome al palazzo e che dette commissione all'Alberti di costruirlo è la famiglia dei Rucellai, la cui ricchezza arriva non proprio da una furberia come era stata per quello dei Bartolini Salimbeni, ma da un'altra vicenda, che era il fatto che questa famiglia, che ai tempi era di origine popolana, un giorno decise di intraprendere il commercio. E allora ci furono questi uomini della casa Rucellai che iniziarono a viaggiare un po' fuori Firenze con i primi traffici commerciali. Una volta t'accadde all'inizio del Medioevo che questo Rucellai e gli scappava, scese da cavallo e pisciò al lato della strada. Tutto regolare. Non fosse che per l'appunto lo zampillo t'andò a centrare una pianticella che sporgeva dalle rocce del terreno e che poi si sarebbe detta Lichene Roccella, ma allora era sconosciuta. E questo tizio rimase parecchio stupito, questo antecedente, soprattutto perché la sua pipì si tingeva di viola nel momento in cui aveva impattato contro questo lichene. Ah. Sorpresissimo da questa cosa, ne raccolse una manciata e se la portò a Firenze. La fece vedere ai familiari e capirono che era proprio quello. No, con le piante. Cioè, quella pisciata l'ha lasciata lì. Quelle altre accanto che non aveva beccato se le ha messe nel sacchettino e se le ha portate a Firenze. Se ne arriva a Firenze e va dagli a famiglia, dice che ho trovato una pianta che se ci piace diventa viola. E tutti a dire, ma che storia, che svolta. Fatto sta che questo era un colore sconosciuto, un colore blu-violetto che se lo cercate ancora esiste. Il colore Rucellari oppure Oriscellario, a seconda di come lo si definisce. Ha proprio preso il colore. È stato inventato un colore là per là, sì. Ha scoperto un colore. Scoperto. Sì, diciamo di sì. Appunto che questa famiglia con questo colore piacque tantissimo. La moda fiorentina la moda fiorentina impazzì. Si sa che Firenze è viola. Come no? Invece vanno abbastanza d'accordo. Infatti era questo blu viola. Era un viola più spostato sul blu. Se lo cercate, fra l'altro è un colore abbastanza intenso, ma piacque tantissimo. Diffuso in tutta Europa, tutta l'Europa lo iniziò a commerciare, fu richiestissimo, la famiglia che l'aveva inventato divenne ricchissima e fino al 700 mantenne assoluto segreto e riservo su come si otteneva questo colore. E lo si otteneva creando una serie di vasche in cui lasciavano ammacerare le piante nell'urina. Vascate di piscio, piante dentro, un bel po' di viola e ci inzuppavano i tessuti. Massima stima. No, beh, a parte che si facevano tutti un po' così, all'origine le cose, pelli, carni. Però hanno avuto una botta di culo incredibile. Cioè. Eh sì. Cioè. Una bella fortuna per questa famiglia che comunque sarebbe diventata molto molto famosa con una pianta sconosciuta che era stata la svolta. Una discreta svolta fu per questo. Avrà qualche nesso col detto pisciati addosso e chiamalo sudore? Può darsi. Cercherò di informare. Beh, ce l'avremo, un momento sui detti nelle prossime settimane. Quindi niente, io vi ricapitolo. Palazzo Bartolini Salimbene in piazza Santa Trinita, Palazzo Rucellai in via della Vigna Vecchia. Legati alle storie delle piante miracolose, la pianta pisciata e la pianta oppiata. E la prossima volta ve ne racconto di un po' più simpatiche e magari ci gestiamo anche meglio i tempi, che adesso ce la siamo improvvisata questa prima volta. Bene, io che dire, c'è un cannabis. Grazie Mario. Abbiamo scoperto anche oggi delle cose interessantissime che non sapevamo. Certo. E che... Allora mettiamo una canzone. Dai. Allora, siccome sono io in regia, avete sbagliato, quindi sarà una giornata molto italiana questa. Italiana con delle puntate a Paris, in Francia. E questa è una delle prime puntatine che facciamo. Questo è un pezzo bellissimo del nuovo disco della Femme, uscito da pochi mesi, consigliatissimo, veramente bello. Septembre, appena finito. Ci siamo quasi dentro. Le mois de septembre va commencer. Un peu de spleen, c'est la fin de l'été. Mais pourquoi mon ventre se serre à la rentrée? Dans les yeux me poussent des angelets. Comme chaque année, je sens le stress qui me prend et qui m'empêche. Cette année, je rêverai en pensant à elle. Oh. même si la chance ne tourne pas de ton côté, notre route s'offre à toi. Tu n'as plus qu'à les imaginer. Allez, réveille-toi. Montre-leur que personne ne choisira pour toi la place que tu occuperas dans cette société, celle qui te fera oublier l'enfant que tu as été. Enfant que tu as été. Et tu regretteras septembre. Tu regretteras Però c'è un'altra cosa che voglio dirti, che credo che sia il vero grande merito di questa fiction, è che non ci sono i toscani, capisci? Cioè nessuno che dice la mia mamma, il mio babbo, passami la carne, la carta, eh? Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese, e questo lo devi scrivere, per favore. Grazie del contributo. Grazie a Stan. Grazie a Mario per questa sua rubrica su Firenze, che si chiama, ricordiamolo un attimo, Lazzi entra a Lazzi, Lazzi fatti facce Lazzi. Faccende e facezie da Firenze. Beh, come va? Fantastica. E hai accennato alla l'opportunità di visitare alcuni dei palazzi e monumenti storici di questa città. Mi collego a questo per dirvi che questo sabato, il 14, lo accennavo anche la settimana scorsa, si terrà una visita guidata al monastero di Santa Maria degli Angeli, che sono alcuni dei locali del quale sono usati dallo spazio Inchiostro. Sì. Questo monastero di Santa Maria degli Angeli è un complesso monumento dal valore storico immenso, che è chiuso al pubblico e parzialmente in disuso, mentre ha un potenziale enorme per il centro della città. E quindi lo Spazio Inchiostro, insieme a due esperti, Divo Savelli e Roberto Budini Gattai, guideranno appunto chi vorrà partecipare in una visita. Ma sei detto sabato, vero? Sabato 14, ritrovo alle ore 15, lo Spazio Inchiostro, che è in via Alfani numero 46 rosso, se non mi sbaglio. È praticamente al bar, dove c'è il bar Brunellesco. Sì, è dietro all'ospedale di Santa Maria Nuova. Sì, l'ingresso è proprio dal bar, dietro alla rotonda del Brunelleschi, dove c'era il CLA, il centro linguistico d'Ateneo. Sì. Subito dopo la traversa, insomma, per entrare in piazza Brunelleschi. Tra l'altro in quel chiostro io penso ci siano lunette affrescate da Gerardo e Pier Francesco Silvani. E quello era proprio una parte di tutto il complesso di lettere all'origine disegnato dal Brunelleschi. Mica roba da poco, e viva che si possano finalmente rivedere questi spazi che erano chiusi e inaccessibili. Sì. A proposito, tra l'altro, del Spazio Inchiostro e della nostra città, ho visto che ci saranno 5 incontri sul tema dell'industria del turismo nella città di Firenze. E questi partiranno il 21 ottobre con la presentazione di un libro di Marco D'Eramo, che si chiama Selfie del Mondo, uscito quest'anno per Feltrinelli. E continueranno con appunto incontri e dibattiti sulla Firenze città vetrina, sui temi del lavoro, per esempio anche in una città turistica come Firenze, quindi il lavoro stagionale e lo sfruttamento. E ci sarà anche un incontro su, con degli esperti su Torino, sì, su Berlino e Barcellona come città esempio di cambiamenti che hanno trasformato le città da città vissute a città vetrina, dei centri storici, dei loro centri storici soprattutto. Quindi appunto lo spazio inchiostro sta sul pezzo su questi temi, sta sul pezzo. E quindi dal 21 ottobre, poi magari li ricordiamo settimana per settimana, ma certo, dal 21 ottobre c'è la presentazione di questo libro e poi andranno avanti. Ragazzotti. Bello. Sì. E io tutto questo sabato sera leggevo, come tutti i miei sabato sera preferiti, Avvenire.it, il sito di Avvenire. Certo, certo, come tutti. Con chi io spesso. Certo, chi non. E leggevo appunto questa notizia molto divertente alla fine, se non fosse tragica sotto tanti altri punti di vista, della nave C-Star, di cui abbiamo già parlato, che era quella nave che doveva andare per il Mediterraneo a rompere il cazzo alle ONG, alle navi delle ONG che andavano a salvare i migranti o comunque... Che è andata. La Nazi Boat. La Nazi Boat, che ha ricevuto tra l'altro milioni di euro di finanziamenti da molte associazioni e partiti e anche, penso, singoli. Sì, quella che era stata bloccata, no? Quella lì, esatto. Nei porti egiziani. Tutta quella peripezie. Quei cingalesi che ci lavorano. Cingalesi dentro, esattamente. Più vicino al microfono, è vero, devi... Sì, sì, quella lì, quella appunto con i lavoratori cingalesi sopra. E attenzione, notizia dell'altro giorno, dimmi, caro. No, perché dell'altro giorno, forse, non so se l'avevate, era già successo, ma a un certo punto addirittura è stata aiutata da una nave di un ONG, perché sì, loro erano alla deriva, sì, quindi sì, sono stati soccorsi da un ONG per migranti che le dà una mano e l'ha scaricati tipo le ha portati tipo a Malta o una cosa del genere. Sì. A un certo punto sono stati fermi. E poi c'erano la Bega, poi anche a Cipro, e nessuno li voleva, sì, nessuno. Perché c'hanno tutti una cosa dei documenti. In tutto questo, evidentemente i personaggi che si erano messi a capo di questa imbarcazione hanno abbandonato la barca, che è arrivata alla deriva praticamente davanti alle coste di Barcellona. Cioè hanno mollata così. L'hanno mollata con l'equipaggio cingalese, cioè gli suprematisti sono scesi e chissà dove sono finiti. E l'equipaggio cingalese ha mandato diversi SOS alla capitaneria di porto catalana, per l'appunto, era qui che mi ricollegavo. Quindi della capitaneria di porto di Barcellona, perché c'era questa nave alla deriva e queste persone che disperatamente chiedevano aiuto perché erano rimaste senza acqua e senza cibo in una nave alla deriva senza carburante. È un casino, cioè mori tendenzialmente. E la marina catalana ha preso le sue barche, ha trascinato via dal pantano la C-Star e sono ancora bloccati vicino al porto di Barcellona perché mancano i documenti per fare qualsiasi cosa, per farla attraccare o per fare, insomma, questa è la storia gloriosa, direi, di questa imbarcazione che dopo aver solcato i mari del Mediterraneo a caccia di migranti da rispedire in Libia è stata abbandonata a se stessa con l'equipaggio a bordo. Ma qualcuno l'hanno acchiappato, ecco. Ma si capisce bene come che fine hanno fatto. E hanno mai incontrato migranti o no? Ma che ne so, non sono mai intrufolati. Ma ragazzi, no, vabbè. Comunque finita. A questo punto si può dire che è finita l'epopea della C-Star. Probabilmente C-Star, sì, beh. Speriamo che venga anche affondata a un certo punto. E se viene affondata, no, sarà vero il detto che i topi sono sempre prima a fuggire da da una barca che affonda. I sorci. Esatto. I sorci. E ottimo. Quindi questa notizia appunto dalla mia fonte attendibilissima e quotidiana di Avvenire.it. Grazie Joao. Prego. Prego. E grazie alla CEI. E grazie alla CEI. Sempre grazie. E detto questo, ormai il nostro lapo ha già sfoderato 3 o 4 detti, come se fosse... Ma non sono io il... Però non sei te quello incaricato a fare questo. Bensì il nostro amico Bricco. Esatto. Eccolo. Ciao Bricco. Allora, aspettate, non ero pronto. Non eri pronto, ti ho preso un po' la sprovvista, caro. Se poi possiamo mandare una canzone nel frattempo che... Beh, vai, c'è una bellissima. Vai. Dai. Thank you. lascia stare, non mi chiedere più niente, oh, fallo per favore, hai succhiato sufficientemente energia, ah, ora vattene via e portami con te se vuoi nelle ciance vergognose che farai. Ti odio tutto qua, come i soldi e come la slealtà, come chi volta le spalle se ne va. Stare e non mi coinvolgere mai più, se ti riesce, ti ho spiegato sempre nulla, hai capito ormai, oh, non c'è altra opportunità. Sappi bene che non avrò blandizie da vendere, non a te. Ti odio tutto qua, come i soldi e la disonestà. Dai. Eccoci. Questi temo che fossero i Marlene Hunts. Purtroppo direi. Certo. Direi di sì. I Marlene. Mi avete dato tempo. Bravi. Sì, Marlene non l'hanno fatto. Dicevamo. Allora. Quindi, ciao Baldo. Ciao. Buonasera. I detti da ore. Sì. Allora, sì, esatto, sono, anche se sono qua da ore. Ti salutiamo tutte le volte. Allora, oggi 9 ottobre, 9 ottobre del 2017. Intanto si può dire che oggi è Dioniso e compagni. San Dionigio e compagni. Ah, e compagni, ragazzi, anche. Oppure anche santo dei compagni, dai. Santo dei compagni. È un santo dei compagni, forse. Vabbè. È compagno, come dire, vabbè. Oui, oui, tutti amici suoi. Oppure anche San Giorgino Matteo. Scusa, un attimo, a me questa cosa mi incuriosisce, ci hanno fatto. No, vabbè, dai, non come fa dire stronzate. Che poi è interessante chiedersi, ma perché proprio Dioniso e non i compagni hanno lasciato il nome? No, Dionigio. Dionigio. Okay. Figurati se è un nome pagano. Sì, infatti strano era. Non so, chissà. Forse si potrebbe andare a dai, cercare andiamo questa la prossima cosa. Volta, sì, forse. Ma Joao su cosa si era soffermato? No, su questo compagni. Su cioè, compagni. Non è male, infatti. Ma è strano. Bello, vai. Scusa. Ok. Comunque, appunto, per il 9 per San Dionigio, non mi chiami Euroliva se non mai ancora raccolta. È come dire, non dire mai dire gatto se non ce l'hai nel sangue. Certo. Cose del genere. Certo. Voglia te a dirci all'olive, se poi vai a raccogliere, insomma, devi vedere dopo quante sono. Però è in prima persona, non chiamarmi Oliva. Non chiamarmi Oliva finché non mai raccolta. Sì. Lo dice l'oliva. Sì. Lo dice l'oliva. L'oliva lo dice. Evidentemente. Certo. La saggia oliva. Il frutto dell'olivo che finché non è raccolto non vuole farsi amare oliva. No, esatto. Più che altro sì, ma è una cosa magari un po' più scaramantica, nel senso, cioè, tu proprio come tipo aspetta a fare un attimo conti su quanto, come su dice quanto il trap davvero andare. Don't say cat if you don't have in the sec. Esatto. Comunque allora io ho cercato un po' di cosette, anche perché insomma non ci possiamo accontentare di San Dionigio. Ho scoperto che, intanto oggi dobbiamo ricordare che il 9 ottobre, esattamente 50 anni fa, veniva ucciso il Che Guevara, Ernesto Che Guevara, alla fine rivoluzione, guerriglia boliviana. Il 9 ottobre, data altrettanto importante anche perché nell'anno 1000, esattamente, cioè, sì, si può dire all'incirca nell'anno 1000 del 9 ottobre, c'è stato il primo europeo che ha messo piede sulla terra nordamericana. È vero, me l'hai detto prima. Esatto, e era questo, bello. E ora questo, ho trovato che era questo certo Leif Erikson, la pronuncia pessima veramente, che era un viaggiatore, un avventuriero islandese, va bene, è vissuto a cavallo fra gli anni 1000. E lui era un vichingo, vichingo, cioè è l'ultimo di una stirpe di grandissimi esploratori. Infatti lui era figlio di Erik il Rosso. Figurati. Erik il Rosso, anche lui vichingo. Cosa ha scoperto? Finland, la parte del Canada. Sì, esattamente. Leif Erikson, intanto ti dico, cioè, Erik il Rosso, che era suo padre, ha scoperto è arrivato in Groenlandia e ha costruito un insediamento in Groenlandia. Suo nonno era Thorvald Asvaldsrun. Va bene? O qualcosa del genere, Trovarsson, Asvarsson, e lui era stato invece in Sud America ancora prima. Proprio super figlio d'arte, nipote d'arte. Aspetta, a sua volta, perché era pronipote di Nardord, che invece figlio fu di Thor, che invece lui scoprì l'Islanda. Lui è arrivato in Islanda. Va bene, quindi questi vichinghi normanni, vabbè, insomma, finiscono con Leif Erikson. E sì, appunto, lui partì dalla Groenlandia e riuscì andò verso il continente che adesso è Nord America e arrivò in un posto che lui chiamò Helluland, va bene? Che perché era un'isola che era composta, fatta di pietre piatte. Infatti dice che le radici Hell vuol dire proprio piatto. Bene, che dice adesso si possono hanno identificato all'incirca nelle isole Baffin. Le isole Baffin sono praticamente, è un po' strano lassù perché c'è il polo nord e quindi è difficile dire a nord e a sud est. Però nel senso sono fra la Groenlandia e la terraferma canadese, sono proprio a nord, ma molto vicino al circolo polare. E quindi lui arrivò lì, pietre piatto, non ci potevano stare, cioè comunque sei a nord, quindi scese ancora un po' in giù e trovò questa e denominò questo posto Markland perché incontrò questa terra con i boschi. Bene, dove che dice sostengono che sia il Labrador. Il Labrador è la regione più orientale del Canada, esattamente. E lì vi si insediarono e lì dice che stavano bene, avevano un terreno ricchissimo di frutta, ricchissimo di salmoni, c'era un sacco, insomma. Ci sta. C'era una colonia poi nei secoli c'è stata una colonia importante fino in Virginia, dice che arrivavano la colonia vichinga. Sì, Virginia è il nord degli Stati Uniti proprio. Esatto, tutto bello, questo è il 9 bello. Ottobre di 2017 anni fa. Vada lì. Bello, bello, bellissimo. Bellissima storia, mi piace. Anche a me. Sì. Ragazzi, ricordiamolo il detto comunque che abbiamo cacciato fuori oggi. Che non mi chiamare oliva finché non mi hai raccolta. Dai, bellissimo. Grazie, Baldo. Ma di niente, ragazzi, è un piacere. Ciao. Sentiamo una canzone? Dai, yeah. Dai. Sì, sì. Dai, vi metto Giovanni Truppi. Grande, romano, dai, grande, un giovane, no. Bellissimo. Vabbè, bellissimo. Non ho consigliato io niente. Nulla, nulla, nulla. Oggi ci sono io, tutto italiano francese. Questa si chiama Superman. Ho sognato che facevo l'amore con Superman. Era molto meglio di te, era grande, era forte, era Superman. Non mi ricordo se aveva il mantello e il vestito blu o se li aveva appoggiati dove poggiavi i vestiti tu. Ma mi ricordo la posizione. Lui mi faceva volare, volare, volare, volare, volare. E invece tu non mi hai mai fatto volare. Finita così? Secca. Finita secca. Finisce secca. Womba. Womba. Womba. Era il verso del Womba. Wombat è come i Pokémon, fanno Pikachu. Wombat è il proprio nome. In Australia. Detto questo, andiamo avanti con le nostre rubriche. No? Perché dovete. Perché indugiare altrimenti? Non diciamo oltre. La prossima rubrica. Ma non diciamo nemmeno l'IVA. Perché non siamo capo. Prendiamoci un minuto adesso. Io non sto capendo più un cazzo. No, infatti niente, sono rintontito. Mi avete rintontito. E quindi ci aspetta Tommaso. Aspetta. Ti aspetta. Aspetta. E ci sono io qua che mi sto mangiando le nocche perché vorrei fare la recensione di Blade Runner, ma non la faccio. Per evitare, perché ci sono alcuni che mi dicono: no, io non l'ho ancora visto, lo voglio vedere, quindi. Dai, ce lo guardiamo in settimana e poi settimana prossima facciamo un bel dibattito su. Esatto, sì, sì, come ai vecchi tempi, no? Alla vecchia. Alla vecchia, ma adesso ritorno con la seconda puntata. Incredibilmente, siamo già arrivati alla seconda di Nozioni Inutili. Non avendo una sigla, la improvviserò al momento. Nozioni Inutili, Useless Notions. E quindi bello, può diventare quella ufficiale. Assolutamente, sì, sì, sì, questa è grande produzione. E parliamo, visto che abbiamo parlato di vichinghi, quindi immaginiamo i vichinghi, la morte onorevole, andare nel Valhalla. Beh, questa nozione di morte onorevole in realtà esiste anche in natura, perché c'è una specie di termite scoperta abbastanza di recente. Questo studio risale all'anno 2012, quindi 5 anni fa, che si chiama Neo Capriterme Staraqua, che sembra un po' il nome di un singolo reggaeton. In realtà questa Neo Capriterme Staraqua ha una particolarità, ovvero che le operaie, una volta raggiunta l'anzianità e quindi non potendo più lavorare a pieno regime, iniziano ad accumulare una proteina fatta di cristalli blu che si chiama BP76 e contiene il rame, cristalli di rame. E in battaglia queste lavoratrici si mordono queste sacche, questi anelli che si creano nella fascia addominale e rilasciano questa proteina che a contatto con la saliva crea una reazione tossica e uccide tutte quante le termiti o le avversarie che vengono in contatto con questa proteina, compresa la portatrice. Ma e quindi è un attacco kamikaze. Ma quindi si sgrana la sua? Sì. Esatto. Blocca tutto e così uccide il resto. Incredibile. È bello, ma è tipo la mossa finale, cioè non esatto. È che lo fa. Sì, sì, è la fatality. Sì, sì. È tipo Yaozi in Dragon Ball che si fa esplodere. Solo che poi lui non serve a niente. Invece questa termite, come vedete, prima ha lavorato e poi si è uccisa per la patria. Quindi questa mentalità anche un po'. Com'era il nome? Mi ricordo che nella prima guerra mondiale delle termiti. La Neo Capriterme Staraqua. Le armi chimiche sono. Sono esatto. Termiti giapponesi. Esatto. Presto ci sarà un rapporto del Pentagono che dirà che ci sono le armi chimiche e quindi dobbiamo fare la guerra alle termiti. Bene, come si chiama questa razza? Neo Capriterme Staraqua. Bella. Vedete, questo nome è molto estivo, fresco, no? Molto snello, sì. Peso comunque. Bisognerebbe fare anche proprio una rubrica di scienze naturali, sì, in sì, cui sì. Raccontiamo curiosità dal mondo animale. Sarebbe molto bello. Forse bellissimo. Potrei anche avventurarmici. Comunque questa è la fine della seconda puntata di questa rubrica e ci ritroveremo settimana nuova con una nuova nozione inutile, casuale, che non avrà alcun effetto sulle vostre vite. Sarà un po' come il servizio SMS del CECU, no? Aumenta il tuo apprendimento del 14%. È vero che forse sopravvaluti le nostre vite. Io ne parlerò a lungo per tutta la settimana di questa. E magari un giorno da Amadeus ti chiederanno proprio qual è quella termite. E vinceremo un pacco di rame. Ricordatevi e di anche me. Voi ascoltatori di Radio Wombat, grazie a noi. Nel caso ricordatevi di questa radio autofinanziata, amici. Dato le notizie. Giusto, ricordatevi di noi quando farete una balla di quattrini. Yeah. Grazie, Tommaso. Grazie, Wombat! Wombat, Wombat! E quindi qui si accumulano le cose inutili che vi proponiamo giornalmente. Giornalmente. E siamo orgogliosi di questo, di mantenere questo ruolo importante, ruolo di, fondamentale. Fondamentale per la, per la città, radiofonia, però, anche per la società italiana. Tutta, direi. Certo, certo. Raccontatelo ai vostri figli quando metterete a letto stasera. Cosa succede nell'altro mondo, praticamente. Esatto. Bene. E che si vuole fare? Io volevo fare gli auguri. Dovevo fare degli auguri. Gli auguri al Partito Democratico. Tra qualche giorno compie 10 anni. Con una notizia volevo fare gli auguri. Quale? Peraltro possiamo vantare il diritto di nascita, visto che è nato a Firenze. Certo. Mannaggia anche questo. E, tutte. Un sacco di cose brutte succedono. Ce le abbiamo tutte. Dall'oppio. Ah. No, però con una notizia di qualche giorno fa. Di un gruppo di studenti che è stato impegnato nell'alternanza scuola-lavoro da un professore a Caprarola, che tra poco vi dirò anche precisamente dove Caprarola. Ma quello nel Varesotto? Sì, sì. Allora, nel Varesotto. Abbiamo la... Mi pare, ha letto recentemente di cose brutte. Sì, esatto. Varesotto è la zona di Varese? Sì, sì. Okay. Questo gruppo di studenti impiegati nell'alternanza scuola-lavoro alla festa del PD con presente... Ah no, quello era mi sa in Liguria. Mi hai truffato completamente. No, nel Varesotto ci sono state molestie. Ah, perfetto. Sì, esatto. No, ok, no, io volevo... Ora tra poco rompete il cazzo, dove cazzo è? In Liguria. In Liguria, appunto, un gruppo di studenti portati da un professore a fare l'alternanza scuola-lavoro senza prima dire dove sarebbero andati, alla festa del PD, hanno lavorato 6 ore e mezzo gratuitamente per servire la cena a niente po' di meno che la ministra Fedeli, ministro dell'istruzione. Yeah. Ma per il compleanno, dai. Capito? Per il compleanno si può sfruttare. Si può sfruttare dei giovani ragazzi di 17-18 anni e a portare da mangiare ai tavoli. E questa è una delle tante notizie sull'alternanza scuola-lavoro. Potete sbizzarrirvi scrivendolo su Google, andando a cercare tutto quello che succede. Poco tempo fa, sempre in Liguria, vicino alla Spezia, un ragazzo è rimasto schiacciato da un muletto che stava guidando da solo, senza tra l'altro nemmeno avere il patentino per guidarlo. Stava guidando un muletto nell'alternanza scuola-lavoro, nel senso stava lavorando evidentemente in un magazzino di logistica. Si è frantumato una gamba. E tante altre, quelle delle molestie che dicevi te, insomma, è stata una buona riforma, mi pare, questa buona. Quindi non è un caso che questo martedì domani abbiano organizzato un corteo studentesco proprio su questo e altri temi riguardanti il mondo della scuola. Esatto. Quindi domani, infatti, domani ci saranno anche testimonianze, esatto, di casi non così gravi, ma comunque assolutamente deprecabili, avvenuti a Firenze. Sì. Sappiamo che comunque sarà davvero uno dei 3 temi principali di questa manifestazione di tutto l'autunno qua a Firenze. Esatto. Quindi la rilanciamo comunque domani mattina alle 9:30. Alle 9. Appuntamento in San Marco. Scherziamo. Alle 9 in Piazza San Marco, partenza del corteo. Oltretutto, visto che il corteo termina in San Lorenzo con un bel pranzo, con un bel pranzo sociale per riappropriarsi degli spazi pubblici come appunto Piazza San Lorenzo. Certo. Pranzeranno sui gradini? Pranzeremo sui gradini. E Nardella verrà a innaffiarci con l'idrante della polizia municipale. Magari l'ora, no, non verrà a innaffiarci perché lui sarà dentro la scuola, dentro il come si chiama? Il Galileo. No. No, doveva essere, doveva andare al Galileo. Non so se andrà, penso di sì. Dovrebbe inaugurare il cortile del Galileo. Cortile, bellissimo cortile fatiscente del Galileo, che è sempre lo stesso da circa 400 anni. Probabilmente avranno messo in sicurezza i cornicioni che perdevano i pezzi. E Nardella giustamente si presenterà Incredible. A festeggiare. Perfetto. Peraltro, giusto per fare una linea, insomma, con anche le puntate precedenti, questo è il corteo, è il famoso corteo, no, che era a conclusione dei quattro pomeriggi, esatto, che sono avvenuti allo spazio Inchiostro della rete dei collettivi. Okay. E comunque continuate a seguire Radio Wombat, anche perché avremo voci e testimonianze da parte delle forze studentesche, insomma, ci parleranno di questo autunno e di quest'anno di lotta, di cosa, esatto, è in corso. E cosa serve? In proposito, farei anche un appello agli ascoltatori di Radio Wombat Sì, scusate, facciamo. Ho fatto un danno qui. Per chiunque si trovi nelle situazioni calde, in momenti importanti della vita della città, se si trova in occasione di raccogliere materiale, fare interviste, certo, registrare contributi che poi vorrebbe proporre a questa radio per essere poi trasmessi, insomma facciamo questo invito di scrivere a postawombat@insiberia.it. Sì. Lei? E perché proprio sì, ci sarà, a breve sarà aperto uno spazio nel palinsesto di Radio Wombat che si occuperà appunto di trasmettere contributi raccolti nelle situazioni, raccolti in presa diretta nelle varie occasioni importanti che nascono dal basso in questa città, in cui tutto invece viene deciso dall'alto. Quindi, accendete il registratore del vostro telefono e poi mandateci tutto. Fate due chiacchiere, intervistate persone che di cui può valer la pena sentire la voce e mandateci tutto. Dai. Detto questo, noi abbiamo una rubrica che ci accompagna ormai da già qualche settimana, che è quella del nostro amico Grippo, che oggi non c'è e ci ha mandato il suo contributo. E ci ascoltiamo, che dici? E dai. Buon pomeriggio Wombats, eccomi qua, sono Grippo e seppur in differita vorrei proporvi il mio disco della settimana. Il disco per questa settimana è sottofondo, è stato scritto da David Byrne e Brian Eno, i nostri sacri, e si intitola Everything That Happened Will Happen Today. E è un disco del 2008, secondo disco della coppia Byrne-Eno, e un disco particolare soprattutto per come è stato scritto. Ora, David Byrne gli è piaciuto evidentemente questo modo di scrivere, perché l'ha riproposto anche nel 2010-2011 con St. Vincent per Love This Giant, un altro album, un altro lavoro, un altro tour veramente bello. E qual è questo sistema con cui hanno scritto? Semplicemente scambiarsi per email demo. Come funziona? Brian Eno era uomo di tanta musica, tanta musica e poche parole. David Byrne invece è uomo con un sacco di testi nel cassetto senza una musica, e quindi niente. Si sono incontrati, si sono trovati e Brian Eno ha iniziato a mandare questi demo di musica elettronica a David Byrne, che nell'arco di un anno e mezzo ha sviluppato moltissimi pezzi dal punto di vista testuale, e David Byrne ha ricevuto pezzi sempre più difficili da Brian Eno, che si è divertito alla fine a mandare pezzi elettronici sempre più difficili per vedere se David Byrne riusciva a farli tornare comunque dal punto di vista testuale. A mio avviso ci è riuscito, è un bel lavoro. Ed è un lavoro che, per stessa missione degli autori, vuole combinare la musica gospel, comunque l'atmosfera gospel, con moderna musica elettronica. È un disco, Brian Eno diceva, che l'album combina qualcosa di molto umano e fallibile con qualcosa molto elettronico e talvolta matematico. Un album che vuole dare un quadro dell'uomo ancora intento a provare a sopravvivere in un mondo digitale sempre più complicato, e un connubio tra musica e sonorità gospel e nuovi suoni elettronici di Brian Eno del 2008, quindi sono abbastanza complicati e sfaccettati. Ci sono molte tematiche all'interno dell'album. Ad esempio, non so, The River, c'è cioè una canzone che parla dell'uragano Katrina, che ha segnato parecchio la popolazione americana, parla della guerra in Iraq, in alcuni passi, in alcuni punti, parla del governo di George Bush, e poi come tema a abbracciare tutto c'è questa homesickness, non saprei come tradurla, praticamente, non so, il male della casa, di stare in casa, situazioni malate e le dinamiche strane che si instaurano all'interno di una casa. Pensate che ad esempio come copertina c'è dell'album c'è una casa disegnata stilizzata al computer, e se uno zoom, ora non lo vedevo dal mio computer però l'ho trovato qui, si vede anche la bustina di un condom usato sopra il tetto della casa. Una casa in cui succede di tutto a quanto pare. Cosa facevano David Byrne e Brian Eno mentre facevano questo disco? Seguitavano il loro lavoro da produttore. David Byrne nello specifico stava scrivendo la colonna sonora della seconda stagione di Big Love, una serie TV americana, e aiutando, producendo i Fat Boys Slim con Here Lies Love. Invece Brian Eno nel frattempo stava producendo un disco molto famoso che era Viva la Vida dei Coldplay. Un lavoro, ecco, parallelo alla carriera di entrambi, fatto per un anno e mezzo all'interno dei loro studi, dei belli studi, ma e niente, andiamoci a sentire un pezzo che si intitola One Fine Day, un giorno buono, e secondo me è un buon pezzo, ascoltate, secondo me è anche un buon album. Se vi è piaciuto, se vi piace One Fine Day, andatevi a sentire tutto l'album perché è bello davvero tutto. Eccolo là, Wombat, One Fine Day. E rieccoci. Cosa c'è da dire? Begarbato. Ha fatto schifo. Boh, cavoli vostri. Comunque io ve l'ho mandato il mio contributo settimanale. Un saluto a tutti gli wombati che quest'oggi sono a schiumare e a registrare e a fare questa bella puntata. Un augurio a tutti. Buon pomeriggio, buona giornata, buona Radio Wombat. Wombat Wombat. Rieccoci qua, grazie mille Grip, grazie per questo contributo in differita e scusate per i piccoli problemi tecnici, ma adesso... Detto questo, noi andiamo avanti però, perché ovviamente, niente ci può fermare, praticamente niente. E il nostro amico Cav ritorna, o prima si era detto di parlare di altre cose, forse. Esatto. Sì. Fumofonico e... Ci sarà una serata di Slam Poetry. Esatto, giusto? Una serata di Slam Poetry il 14 di ottobre. Ok. Alla Polveriera. Che è sabato? Il 14, vero? Penso di sì. Messo nel più attacco. Io purtroppo sui calendari ho dei problemi. Bene. Comunque sì, dovrebbe essere un sabato. Bene. E... Serata di Slam Poetry. Che cos'è la Slam Poetry? Dai. Che cosa? È una competizione, una gara... È un format nato negli Stati Uniti negli anni 70 e prevede la poesia performata dal vivo da un poeta senza alcun costume di scena o effetto speciale o musica o altro, e il voto viene dato dal pubblico che è giuria. Che quindi, applaude? No, abbiamo dei giurati scelti a caso tra il pubblico. Okay. Le regole sono le seguenti: il voto più alto e il voto più basso verranno tolti dai voti che vengano assegnati, perché c'è sempre l'amico e c'è sempre il nemico. Furbi siete. Siamo scaltri. Ovviamente non ci fregiamo certo di questa invenzione, ma sì, fondamentalmente la Slam Poetry poi funziona con appunto la somma dei voti e si arriva poi a un giudizio finale e ci sono dei turni in cui i vari poeti si sfidano. E... Quindi questa serata sarà organizzata appunto, come avete detto, da Fumofonico. Ok, che è un collettivo. Che è un collettivo fiorentino abbastanza recente, molto recente, nato a maggio, che ha già organizzato vari eventi di Slam Poetry come Open Mic o altre iniziative, e quindi sta continuando a macinare consensi, sembrerebbe, speriamo che questo esperimento continui. Ottimo, ottimo. Quindi 14 ottobre in Polveriera da... dall'ora dell'aperitivo in poi. Assolutamente, sì. Ma già che ci siamo, vogliamo dire anche a questo punto quali sono gli, cioè se ci sono, ma dirla tutta, gli altri appuntamenti della settimana, giusto? Io sì, vorrei ricordare appunto il 12 ottobre, per chi è interessato, dal pomeriggio a Novoli, all'università, all'edificio D5, ci sarà un incontro con gli studenti catalani residente a Firenze, comunque studente a Firenze, per parlare dei vari temi della Catalogna. Poi dopo la serata si invece è al CPA con appunto Indipendenza e Scontro di Classe in Catalogna con Marco Santopadre, e appunto un dibattito e un'iniziativa sulla Catalogna e via. Il 12, se non ve ne frega un cazzo la Catalogna alla fine, c'è allo Spazio Inchiostro, c'è il Cineforum, continua il Cineforum e sarà proiettato il film Miracolo alla Havre. Magari non ne frega un cazzo. Miracolo? Ah, la Havre. Ma c'è un sacco di cose, cioè, di comunque, di cose, perché cioè, prima di questo allo Spazio Inchiostro c'è un incontro sulle lotte antinucleari degli anni 70. Ambiente, economia e pace ieri e oggi. È alle 5, mi pare. Un sacco di cose. Se avete una motoretta, vi spostate velocemente, le potete fare pure tutte. Una bicicletta. E poi alle 21 lo spazio è sempre lì. Appunto, questo Miracolo alle Havre di Aki Kaurismäki, si chiama questo regista finlandese. Sì. Ma siccome siamo qui, magari ricordiamo anche che alle Piagge, dal centro sociale Il Muretto, la comunità delle Piagge sta raccogliendo le firme per rifare la piazza Ilaria Alpi. Là davanti allo spazio viene chiesto al quartiere. Quindi chiunque sia residente nel quartiere 5 e abbia voglia si metta in contatto direttamente con Don Santoro o con qualcuno della comunità e se vuole dare la sua firma. Poi ci ho segnato per venerdì 13 il compleanno della Svolta Sound System, l'undicesimo compleanno della Svolta Sound System, all'interno di quello che poi è il compleanno del centro sociale Next Emerson, che la ospita in questa occasione insieme al Tropic Disco Sound System, che viene da Milano. E venerdì 13 la serata al Next Emerson, perfetto. Poi avevo ricordato il giorno. No, avete altre cose per venerdì? No, io dicevo domani manifestazione dalle 9 in Piazza San Marco. Sì, quello abbiamo detto. Sì. Ah, un'altra cosa che volevo da inizio settimana, che forse non si è mai citata, ma ogni mercoledì alla Camera Popolare del Lavoro, quella aperta dai Clash City Workers in via dei Pilastri 43 rosso, c'è ogni mercoledì dalle 5:30 alle 7:30 uno sportello legale. E lo ricordo anche perché stiamo pensando di avviare proprio qua una rubrica che faccia un po' di tipo consulenza legale connessa a un simile sportello a cui potersi rivolgere. Quindi apriamo la mail, l'indirizzo mail anche alle richieste, alle domande potete avere, sì, su qualsiasi cosa, e poi insomma vi ridiremo meglio quando lanceremo questa nuova rubrica. Però intanto ricordo appunto sportello legale alla Camera Popolare del Lavoro il mercoledì dalle 5:30. Bello. Ora torniamo sul dove eravamo. Al giovedì eravamo, al venerdì il compleanno della svolta al Next Emerson, il sabato. Sì. Il sabato avevo ricordato la visita guidata al monastero di Santa Maria degli Angeli, lì in via Alfani. La serata in polveriera. La serata con fumo fonico in polveriera. Esatto. E serata che comunque finirà, come al solito, spesso là in polveriera, entro una certa ora chiudono. Chiudono tutto. Ma la serata non finisce lì perché all'Emerson ci sono ben tre concerti, tre gruppi. Che suonano i Polemica, i White Room e i Cora. Okay. Come sempre il collettivo Nuovi Rumori che si occupa di queste cose, mantiene viva la scena qua a Firenze, sempre mirando un sacco di band anche locali e fuori. I Cora spaccano, per Dio. Sì. Post hardcore da Firenze Pistoia, mi dicono. Yes. Okay. Ah, tra l'altro, già che ci sono, al Next Emerson c'è stato anche un concerto dei Dead e di Motre, che per i presenti è stata veramente una bella serata di metal e stoner molto ben fatto. Sì, ma infatti occhi aperti sull'Emerson, anche perché legati a Radio Wombat, a partire da quest'autunno ci saranno una serie di serate, insomma. Tutti pronti, anche perché come sentite sono riniziati pare gli eventi, tante cose, noi continueremo a darvene conto. Certo. Posso mettere una cosa, scaricate una cosa? Fammela mettere, dai fammela, forza, simpatica. Forza. C'hai le mani, c'hai te. Dai, facciamo una canzoncina e poi rubrichetta. Dai. Gasman legge gli ingredienti dei frollini. Ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina. Impiego di oli alimentari, Vegraf, staccanti sulla superficie delle teglie, prodotto senza aggiunta di grassi, aromi o coloranti artificiali, tenere in luogo fresco e asciutto. Keep it fresh and cool. La tatuata bella, al lavoro non ci va. Ha messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita, a consumar le dita per gli altri non ci sta. Padrone mostra il muso, vediamo come sei. Padrone mostra il muso, che lingua parlerai. Da dove arriverai a cercar profitto? Sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai. Se lavori duro, un motivo ci sarà. E se lavori duro, un motivo ci sarà. Che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro, o solo del pensiero, che senza non si può. Ti dico che non vengo a lavorar, non vengo. Starò con la mia bella sul prato a far l'amore. Voglio girare il mondo, che il mondo è in testa, oh. Voglio girare il mondo, che il mondo è in testa, oh. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna, e altro io non ho. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna, e altro io non ho. Musichette buffe! Da quanto tempo non sentivo questa sigla? Che bello. Ebbene sì, torniamo quest'anno. Dai. Appunto, come ho un po' più di tempo da mettere a disposizione, quindi negli ultimi mesi sono stato molto assente, me ne scuso, ma sarebbero state mille cose di cui chiacchierare, raccontare, mille splendide scuse per mettere un po' della musica che piace a me e non tipo quella che è passata oggi. Ma vabbè. E nulla. Un po' di peggio, un po' di peggio. C'è chi applaude, va via. Maledizione. Comunque, appunto, sono successe un sacco di cose, infatti... La mia scusa di oggi non è una cosa recentissima, per quanto alcuni risvolti siano molto molto recenti, ma mi è sembrato anche giusto provare a rifare un minimo il punto, un piccolo resoconto di cosa è successo al G20 ad Amburgo. Perché no, insomma, se ne sentite di cotte di crude, si sono viste un sacco di informazioni, cioè di foto, di video, ma almeno io ho avuto difficoltà a seguire passo per passo quello che è successo nella città, e come dire, e poi le conseguenze che questi tre giorni di G20 hanno avuto. Nulla, va bene, parto subito, scusate, sono prolisso. Ma prendi il tuo tempo, è tranquillo, sì. Allora, tanto non ti pagano ad ore. Ah, no, non ti pagano proprio. Grazie al cielo. Allora, piccolo sguardo su dove si sono svolti i fatti, ovvero Amburgo. Vale un minimo la pena perché comunque sì, Amburgo è una delle città più radicali della Germania. Viene considerata una delle più rosse, se non la più rossa, e ha molta partecipazione, comunque sia, come dire, non molta partecipazione, più che altro ha dei grandi quartieri popolari che sono fondamentalmente San Paoli, Altona e Schanze, okay. e comunque sia in generale anche quello che è il centro storico ha una grande, come si dice, percentuale di migranti, semiproletari, comunque sia, okay. Col fatto che c'è il porto, è una città operaia, mettiamola così. Allora, non dico cosa è il G20 perché dai, penso si possa sapere tutti, tutte le persone più potenti del pianeta, il dispositivo poliziesco che è stato messo in campo dalla Germania a proteggere tutto ciò. Sono stati solo 20.000 poliziotti, squadre speciali, 4.000 camionette, 30 idanti, 20 elicotteri, carri armati e 10 km di filo spinato. 10 km? 10 km di filo spinato. C'è chi ha detto che è il più grande contingente poliziesco messo in azione dalla Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si parla, cioè... Ti fa più bene alla fine. Una roba. Ok. Allora, partiamo con appunto breve riassunto delle giornate. Nei giorni precedenti, si parte in realtà dalla domenica precedente, il G20 era il 6, 7, 8 luglio, quindi si torna, se non sbaglio, al 3 luglio. Viene sgomberato nella notte un campeggio autorizzato che era stato appunto autorizzato e che aveva i primi manifestanti che venivano, che stavano arrivando in città. Praticamente vengono prese a manganellate le tende con dentro la gente. Qualche giorno dopo, altra cosa che vale la pena segnalare è che viene resa nota che c'è stato un festino con 300 celerini. Quella è una notizia che ha avuto abbastanza clamore, insomma, 300 cellerini rimandati a Berlino perché sono stati beccati in una festa a base di sesso e droga. Ottimo. Si stavano preparando, stavano caricando ai giorni. Ma arriviamo ai giorni del corteo, cioè ai giorni del G20 e quindi dei cortei e delle azioni contro. Si parte con giovedì 6, il primo corteo è quello di lancio, che si intitola Welcome to Hell, Join the Black Bloc. Quindi si può già intuire che il livello di tensione sarebbe stato molto molto alto e che non aveva alcuna intenzione di essere un corteo prettamente pacifico di base. Ad ogni modo, il corteo viene immediatamente circondato nel punto in cui c'è il concentramento. Partono le cariche e dividono il corteo in due blocchi. A quel punto si susseguono scontri che durano un paio d'ore e poi il corteo si disperde nei quartieri popolari che sono accanto alla zona del concentramento. Ci sono comunque sia scontri sparsi più o meno fino alle 2 di notte. Il giorno dopo si inaugura con circa 400 persone che all'alba mettono a ferro e fuoco una zona di lusso a nord di Altona, che abbiamo detto è uno di questi quartieri popolari. In mattinata partono invece 5 diversi cortei da 5 concentramenti diversi che bloccano la città, tra le altre cose impedendo a Schäuble, che è il ministro delle finanze tedesco, di raggiungere il vertice del G20. Nel pomeriggio proseguono diversi altri cortei, uno di cui si sono viste tante foto è stato il flash mob con un migliaio di zombie, di persone vestite da zombie che girano per la città e circondano i mezzi della polizia, e non le proseguono anche vari scontri a macchia di leopardo per la città. Alle 19 di venerdì è previsto il concentramento per un corteo rivoluzionario. Durante il concentramento stesso la polizia inizia a sparare con i cannoni ad acqua e prima ancora che il corteo riesca a partire parte la risposta. Sulla risposta io vorrei leggere un brevissimo brano. Aspettate, ovviamente mi è andato in stand-by il computer, quindi non posso leggere il brano. Ecco, da un approfondimento che si può trovare sul numero 4 di Qui e Ora. Tutto il numero è sul G20, quindi chi vuole approfondire secondo me può essere molto interessante, ci sono diverse chiavi di lettura e diversi spunti. E questo è un documento che è stato scritto a posteriori e che si chiama Note partigiane sulla comune di Amburgo, e ora si capirà perché si parla di comune di Amburgo, della brigata Jan Valtin. Spero di averlo nominato bene. Allora, decine di gruppi organizzati passano all'attacco, erigono barricate, le incendi e le difendono pavé alla mano dalla polizia, che non riesce a penetrare nel quartiere. Una vasta porzione del centro della città è in mano ai barricadieri. Quando raramente ci riesce, la polizia viene subito respinta da splendide controcariche. Aug. In più di un'occasione la polizia è costretta a fughe precipitose che suscitano grida di esaltazione tra i ribelli. I cantieri divengono miniere di munizioni, decine di falò vengono accesi. Tra urla e sorrisi vengono saccheggiati 5 supermercati, negozi di telefoni, un Apple Store. Una pioggia di merce vola sulla folla festante. Nel tripudio viene strappata una magnum di champagne che viene aspersa tipo doccia sui presenti. Nessuno attacca i bar, i chioschi e i negozietti solidali che recano affissi cartelli contro il G20 e simbolo del San Paolo. Molti di questi restano aperti e sono affollati di persone che ridono, scherzano e incitano i rivoltosi e insultano le guardie. Qualcuno prende posizione sui tetti facendo piovere di tutto sugli sbirri. Anziché diminuire di numero, le schiere dei rivoltosi aumentano con il passare del tempo. Molti abitanti del quartiere che inizialmente stavano in disparte si uniscono con gioia alla rivolta. Dalle periferie continuano ad arrivare forze fresche galvanizzate dalle voci che girano. Ci sono ragazzi che telefonano agli amici dicendo loro di accorrere. La polizia perde definitivamente il controllo del territorio, mentre qualcuno limona dietro una barricata, altri amoreggiano sul balcone, contagiati dall'estasi collettiva che ha invaso le strade. Insomma, è quella che, per l'appunto, da qualcuno è stata chiamata la comune di Amburgo, perché la polizia ha perso totalmente il controllo di quella porzione di quartiere fino al giorno dopo. Quindi una notte caldina. Dopo, al mattino dopo, il sabato, i G20 sono già ripartiti e un corteo di 100.000 persone attraversa la città. Cosa fa il corteo? Il corteo rivendica tutto ciò che è accaduto nei giorni precedenti, dichiarando che comunque sia la responsabilità è del G20 stesso e della sua polizia. Oltretutto, ovviamente, chiede che vengano liberati i tantissimi fermati che ci sono stati. Anche qui qui in questo caso la polizia inizialmente resta in disparte, addirittura senza caschi, e poi gli piglia il grullo e iniziano a fermare persone a caso. A quel punto ripartono grandi scontri che dureranno fino alla notte tra sabato e la domenica. Questa, diciamo, è cosa è successo. Ci sono stati tanti fermati, tanti. La cosa interessante è che tutti i cittadini tedeschi sono stati rilasciati immediatamente e i fermati che hanno atteso di più, che stanno tuttora attendendo, sono tutti stranieri. C'è chi dice perché la Germania voglia giustificarsi verso l'opinione pubblica interna dicendo che è colpa della persona dei manifestanti venuti dall'estero e non dai cittadini tedeschi. Ad ogni modo, tra questi tanti fermati c'erano e ci sono anche degli italiani. Per la precisione sono Alessandro, Orazio, Emiliano, Riccardo e Fabio. Sono stati fermati appunto in quei giorni, tra il 6 e l'8 luglio. Il 28 settembre, dopo quasi 3 mesi, è stato liberato Orazio. Erano stati tutti messi in carcere perché, appunto, per rafforzare questo discorso sul problema delle persone che vengono dall'estero, hanno dichiarato il pericolo di fuga. Quindi carcere preventivo fino a processo, e stranamente tempi lunghissimi, perché si è aspettato appunto 3 mesi. Abbiamo detto il 28 settembre è stato processato Orazio, che è potuto però finalmente tornare in Italia, e è stato condannato un anno con la condizionale, peraltro per il reato, che è tentata lesione, è un reato che in Italia non esiste. Capito. Sì. E altra cosa interessante, c'è una dichiarazione del legale che è: secondo un poliziotto infiltrato nel corteo, Orazio avrebbe lanciato una bottiglia verso un poliziotto, ma agli atti non sono mai state inserite le dichiarazioni di quest'ultimo. Quindi è tutto un po' vago, tutto un po' ma. E questo comunque si è fatto 3 mesi in Germania ad aspettare questo processo. Beh. Il 4 ottobre è stato processato, quindi settimana scorsa, meno di una settimana fa, è stato processato Emiliano. E è stato condannato a un anno e sei mesi con la condizionale. Comunque è potuto tornare anche lui in Italia. Il 5 ottobre Riccardo, un anno e nove mesi, sempre con la condizionale, anche lui rientrerà in Italia. A questo punto restano in galera Alessandro, il cui processo è previsto per il 5 ottobre, okay, che è passato. E Fabio, che ha le udienze fissate per il 16, 17 ottobre e 7 novembre, quindi dovrà starci un po' di più. Ora, io ho fatto un brevissimo riassunto, appunto volevo mettere un minimo l'evidenza, forse non ci sono riuscito, ma sulla questione degli arresti, sui tempi. Alla fine stiamo parlando di fatti di luglio e queste persone sono state in carcere in attesa di un processo fino a ora, senza che, che oltretutto inizialmente gli fosse spiegato perché, per come e per quando. Per chi vuole approfondire il discorso, io ribadisco che c'è QueEura.inc, che è una rivista di informazione, che ha un intero numero, il numero 4 è tutto dedicato al G20, tra l'altro è dove ho tratto anche il contributo della brigata, appunto. Okay. Qui è ora.inc il sito, giusto? Okay. Esatto. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, nell'ultima puntata della scorsa stagione di Fuoco alle Polveri, ossia la 33esima, quindi potete cercarla nel podcast, c'è l'intervista che dura comunque una ventina di minuti a un testimone diretto, è stato... Esatto. Arrestato e trattenuto nei carceri di Amburgo per diverse ore e niente, abbiamo un'intervista in cui ci raccontava soprattutto delle tecniche sia usate dalla detenzione, diciamo, per sfiancare eccetera, certo, eccetera, sia dalle tecniche utilizzate dai detenuti per diciamo, superare resistere ai soprusi che sono avvenuti in quei giorni. Ovviamente. Evviva. Bene. Tutto questo al solito è scusa più o meno grande per lanciare un pezzo che è collegato. Qua appunto in chiave di Riot, di Comune di Amburgo, Lord Bean ci racconterà un po' chi sono i veri criminali. Pezzo tratto dall'album Lord Bean del 1999. Parliamo di hip hop old school, ma serio, cazzo. Dai. Viva. Sto con la gente che con me vive e dimora in una fogna, sogna senza il timore di affrontare la sua gogna e torna. Anche quando dentro al buio brancola, riaffila la sua sciabola e si incula chi l'ostacola. Il nemico marca stretto le calcagna, troppa poca gente che si asciuga, troppa che si bagna, ma qua presto verrà chi si ribellerà e tale forza avrà che le catene a tutti spezzerà e svezzerà. Neonati della rivoluzione che incombe, squillano le trombe, chi è contro soccombe in tombe, antiche come catacombe enorme, il peso del destino che un dannato ha tatuato in fronte. Il tempo trascorre, l'acqua che scorre, non ti puoi opporre, né rimedi puoi imporne qua. È preda degli eventi, chi vive di stenti, stringe i denti, prega le stelle nascenti e non quelle cadenti. E dagli infami che sono là fuori sparsi, mi aspetto colpi bassi, perché così è la prassi. Quando un maiale continua a menare, so dove parare, io per la vendetta so aspettare. I porci tarpano le ali agli angeli, divise e distintivi per le strade, sono già postate agli angoli, protagonisti di storie senza preamboli. Coi poteri di cui vanno fieri arrestano i nottambuli. La strada scrive il mio nome in ogni pagina, ed è ogni pagina spiegarti che chi ci immagina, vittime di chi c'è margina, vede che io non li temo, perché so che ogni ferita si rimargina. Wow. È legale fotterci e non viceversa, e se gli chiedi spiegazioni spesso tergiversa. Loro la legge, noi rinchiusi nel gregge, protetto dagli sbirri, ma da loro a noi chi ci protegge. Retrasmata. Giro per le strade quando è notte fonda, poliziotti in giro che fanno la ronda mentre un pusher di sudore gronda. Quando vede quella macchina inchiodare alla rotonda, pensa preso già una volta, non ci sarà una seconda. Con la fedina sporca e la galera dentro la stagnola avvolta, striscia come un'anaconda e l'odio che feconda. Manca poco, esploderà come una bomba, vita tipo Mortal Kombat, questa piazza come tomba. Appostamenti negli spiazzi, cellulari dei canazzi, ammazzi vanno in giro in branchi come nebbia banchi, strisce sopra i fianchi e taci, fuori documenti per accertamenti perché non gli piace. Intanto retate come se piovesse merda, esco la sera come per andare in guerra. Loro che butti non far ritorno a mani vuote, in caserma caricano un ambulante se il Maruego se l'è data a gambe. Carabinieri, fieri e guardie di finanza, in esuberanza, servi di uno Stato che alle nostre spalle si riempie la panza. Ordini da noi ricevono, tanti bravi soldatini che gli eseguono. Sono ignoranti, soddisfatti solo quando menano, ma i ribelli al manganello non si adeguano. Stanno sopra i marciapiedi e scrivono, ora so il perché, grava sul loro bilancio ogni nostra te. Ce l'hanno il sangue di cagare il cazzo, si sentono forti con il ragazzino che te gave si è preso uno schiaffo. Fuori la pattuglia è già in agguato, mentre un tipo in tasca i soldi della roba che ha appena smazzato. Fra gli abusi per lo sfogo non c'è modo, ne vorrei far fuori almeno uno come Vis nell'odio, ma non è un pretesto se per me uno sbirro non fa testo e non è degno neanche della merda che calpesto. Musichette buffe! Rieccoci. Rieccoci qua. Adesso torna quello con la stessa base che parla sempre di corse. Ah sì? È il sì. Mio momento? Sembra di sì. E allora dai, dai. Start. Null auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Ciao amici. Allora, li avete visti i Gran Premi? Due no. Ce ne sono stati, due. No, io comunque sono ancora sconvolto dalla facilità con cui passiamo dalle cose veramente importanti a delle cose veramente inutili. Beh. Non siamo fatti così, che ci dobbiamo fare? Abissi e picchi. Sempre, su giù, va bene. Allora, che cosa vi voglio raccontare? Niente, non è successo niente, sono noiosi i Gran Premi. No, però mi ci impegno e qualche cosina ve lo porto. Intanto diciamo che la Ferrari è tracollata. L'esperienza asiatica, sono state tre gare in Asia, dopo il momento americano sono andati in Asia, tre gare, tragedia male. Ferrari, è andata veramente molto male, ha perso praticamente tutti i punti di vantaggio. Vettel da solo negli ultimi tre Gran Premi ha fatto 12 punti, cioè quanto un Hülkenberg e un Sainz per capirsi, quasi matematicamente, dovrebbe praticamente vincerle tutte e Hamilton andare sempre male. È dura. Questa affidabilità Ferrari, insomma, un po' tradita. Comunque, ci rifaremo l'anno prossimo. Abbiamo sempre questa coppia di piloti, Ferrari-Raikkonen. Il mondiale è compromesso, ma si chiude all'ultima gara. Non dire Oliva finché non l'hai raccolto. Esatto, abbiamo mai imparato ormai questa cosa. Mai detto. Che attenda la Mercedes. Soprattutto in Formula 1 non è mai detto. Anche perché sì, ragazzi, va a 360 all'ora, cioè, a un certo punto ci sta. Non è mai detto. Cioè, non è mai detto, pezzi, però, sì. Insomma, te le esatto. Cerchi. Diciamo. Sì, sì. Allora, che cosa vi raccontiamo? Due cose, due. La prima è in tema di fumo fonico, poesie. Abbiamo capito che quest'oggi ci sia un po' con Gasman, le situazioni sì. poetiche. Il caso Budkowski, che è un caso che non è che è appassionante, però è di un tizio che si chiama Budkowski e fa quasi Bukowski. E allora okay. può essere... Ok, sì. può essere vicinato. E questo in odore Budkowski... di... È un tizio della FIA, che sarebbe la FIA, la è FIA. Facile, è come la FIGC nel calcio. Sì, sì. Federazione Automobilismo Italiana. Internazionale. Sì, Internazionale. Federation International Automobilismo. O così, che ne so, una cosa. No, no, è mega international. Okay, okay, okay. Questo Budkowski è un tizio, un giovane arrembante, aveva 35 anni, 40 anni. Era un giovane arrembante della Fiat, era designato essere il successore di Ecclestone, capito? Uno, sì. uno sodo. Ha dato da un giorno all'altro le sue dimissioni. Ha dato le sue dimissioni perché... Vuole fare il poeta. No, sarebbe bello, ma purtroppo no. È un mondo molto materialista e lui vuole andare dai soldoni della Renault, mi sa. Cioè, mi sa che la Renault gli ha detto, vieni da me, che sai un sacco di cose, mi vendi un po' di... Ci credo, però poi non torni indietro, nel senso... Poi non torni mai più indietro, sì. Però gli avrebbe... pare che gli abbiano offerto talmente tanto che lui ha rassegnato queste dimissioni lampo. È stato grande scandalo nel mondo della Formula 1 e tutti i team, tranne la Renault, hanno mandato un'email, una lettera comunemente firmata alla FIA dicendo sarebbe inaccettabile che questa persona fosse assunta da un team che comunque adesso deve fare 3 mesi di gardening leave. Lo sapete cos'è il gardening? No, assolutamente no. Il gardening è quella roba, il periodo di attesa dopo un incarico precedente nel mondo delle macchine per di, o dell'ingegneria autosportiva in generale. Devi aspettare tot tempo prima di poter impiegarti da qualche altra parte. E perché viene fatto? Per è perché sennò poi gli porti i segreti. Se te vai da una squadra all'altra, sì, sì, che cambi un po' di segreti e non gli rubi. Ma perché non li possono comunque comunicare informalmente? Sì, però sarebbe grave. Sì. Forse. Se li acchiappano. Comunque ci sono scandali, Formula 1 è piena di sti scandali, quindi alla fine lo fanno, in realtà. Comunque questo Budkowski è ai vertici dei vertici, sa i segreti, sa come vogliono impostare gli anni a venire, sa quali saranno le prossime strategie per le qualifiche migliori, cioè quindi ma non porta... backup alla Renault. Sì, quindi, che ha detto di tutta risposta il patron, il capo della Renault in pista, Vite Bull, ha detto non siamo qui per farci amici. Ha detto me ne frega un cazzo in sostanza. Noi dobbiamo crescere, vogliamo fare la mega squadra, vaffanculo. E la Renault si è chiappata Perez, che da questo prossimo Gran Premio correrà per la Renault, si è sganciato dall'ottica Red Bull, ma non ci interessa tanto. Ci interessa di più che... Attenzione, aspetta. Lo hanno riacchiappato. Lo hanno riacchiappato. Mallia, DJ Mallia, il nostro amico che fa dentro e fuori dal carcere, il patron della Force India, il capo indiano, il miliardario che c'aveva la compagnia aerea Air Force India o qualcosa casino, di... Una vita avventurosa. Una vita quantomeno avventurosa, un po' da dandy di provincia, che se la sfanga nella provincia londinese, che adesso lo ha rimesso in carcere. L'Inghilterra lo ha rimesso in carcere e se ne è riuscito con cauzione. Ha rifatto un altro giro in carcere. In India sappiamo non ci può tornare, i suoi ex soci sono già al gabbio. Questa volta per riciclaggio è stato, perché è accusato di aver riciclato i soldi della compagnia aerea che ha fatto fallire dentro la Force India. Perfetto. Cioè ha detto pigliare i soldi dentro la cosa. L'ha fatto per l'ambiente. L'ha fatto per l'ambiente, sì, perché le macchine inquinano meno dei motori degli aerei, mi sa, per, è stato per questo. E quindi ha fatto riciclaggio. Riciclaggio grosso, perché ci ha portato un pacco di soldi in Force India, che comunque adesso si sta testando come la quarta forza del mondiale. Sì. Rimetti. La Force India, la quarta forza del mondiale dove sta. La quarta forza del mondiale. Sì, sì, sì, dopo Ferrari, Mercedes e Red Bull ormai c'è la Force India, che comunque è forte, ha riconfermato i suoi fortissimi piloti, il francese Ocon, Perez, ha un sacco di sponsor, gasa la Force India. Il cazzo è la, come si dice, la partnership. Sì, ma perché stava iniziando quella dopo. Bella questa. Comunque questo Mallia in giro nel mondo del web c'è un po' di gente che gli dice come fare. Cioè gli dice che è buttato male e il mondo si scatena su Mallia. E io vi volevo leggere un paio di commenti che ho trovato nella rete. Vai. Allora, uno è di un tizio che dice: sì, sì, ormai siamo qua. Ma che gioco a Monopoli questo che passa sempre dalla prigione? E non è male, si fa. Mi era piaciuto. Quell'altro è il ragazzo di Roma che dice: Avice, te stanno a spennare una marea di sordi per far dentro e fuori. Ma vi è qua da Claudio in periferia. Ti mettiamo al banco di frutta del Bangla all'angolo. Ma qua non te trovano più. Quindi insomma vogliamo consigliare a DJ Mallia, se ci sta ascoltando, che il può compagno venire. Claudio da Roma gli sta proponendo di rifugiarsi da un Bangla all'angolo per vendere un po' di frutta e nascondersi nel frattempo delle autorità militari e civili inglesi e internazionali, direi, a questo punto, perché ne ha fatte di tutti i colori. Ottimo. Caro Mallia. bene, bene. Grazie. Prego, grazie amici. Mille. Prego, ragazzi, prego davvero. Prego. Tutto molto importante. Sono qui per questo. Per non dormire. Sulle note di questa... E la lascio, sì. Lascia sempre, ma dovresti lasciarla sempre. Questa dovrebbe essere la base per tutto. Tutte le rubriche. Tutto il programma, cioè solo questo. Beh, pimp, non è molto pimp sarebbe. Non ci spingiamo ancora su tutto il palinsesto, ma presto arriveremo. E iniziamo a salutarci. Chiudiamo, è ora. Mandiamo forse l'ultima canzone, un cenno... Ce n'abbiamo una da 2 minuti. Dai, due. Una da 2 minuti, dai. Rientriamo e vi salutiamo, andiamo tutti a casa. Dai. Manca l'acqua, accenderemo candele per rischiarare la terra ed il mare, idealmente abbracciare tutte le case che un governo più ladro ha lasciato senza acqua. Manca l'acqua. Stavo guidando a passo d'uomo dentro una fila interminabile di semafori ed auto, e avevo davanti un camion di frutta gonfia e rigogliosa, sicuramente era nata lontano da qua. Desiderata, figlia agognata e ma abbastanza baciata, figlia fuggita, dimenticata e sopra un camion di frutta, di nuovo desiderata, figlia voluta, figlia amata e figlia agognata e ma abbastanza baciata, figlia fuggita, dimenticata e sopra un camion di frutta. Di nuovo desiderata, manca l'acqua. Manca l'acqua. Manca l'acqua. Manca l'acqua. Però tu sei ricco, vero? Ricco? Insomma. Perché non sei ricco? No, vedi, la cosa, io c'ho una lira. Ah. Oh. Oh. Ciao, ragazzi. Ciao. Detto questo. Bene, bene. Sotto fondo. Bella puntata, mi è piaciuta. Vi faccio complimenti, ci facciamo complimenti anche da soli. Bravi amici, anche agli ascoltatori possiamo, sì, fare complimenti. Grandi complimenti, soprattutto auguri, soprattutto auguri agli ascoltatori. Pazienza, ci vuole. Tantissima pazienza. Penso tantissima. Dovete essere veramente appassionati per seguire questa faccenda, avete ragione. Noi andiamo avanti, ce ne freghiamo dei vostri giudizi. E ci sentiamo a questo punto lunedì prossimo, sempre 16:30. Nel frattempo tenete sempre aperta e alta Radio Wombat, sia sul sito wombat.onoblogs.org. E niente, ci si sente settimana prossima. Ciao Wombat. Yo. Ciao bimbi. Ciao ciao. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. Invece l'importante è sapere che io ero astemio. E ci doveva restare astemio? Si fa presto a dire. 6 mesi chiuso in cantina. E che faceva chiuso in cantina? La guerra! In cantina? Sì. Mentre il mondo combatteva, io resistevo chiuso in cantina solo.